E studioso dei paesi latinoamericani, studioso dei vecchi regimi del socialismo reale, e appena tornato, cioè andato 2 anni fa per un lungo viaggio in Venezuela, e quindi ne parliamo oggi con lui dello scenario dell'America Latina, cosa ha comportato la morte di Chavez e quali sono le prospettive che si intravedono nel continente. Salve Antonio. Ciao Emanuele. Dunque, io credo che sia che c'è? Non No, niente. è. No, volevo dire prima di cominciare, tu hai appena pubblicato un libro che si intitola Fidel ed il Che, Affinità e divergenze tra due leader della rivoluzione cubana. Libro edito dalla casa editrice Alegre, per cui tu hai già scritto anche sull'America Latina. Tra l'altro, tu scrivi numerosi commenti sull'attualità. E anche traduci contributi da altri pensatori latinoamericani sempre sul Sud America, li pubblichi sul tuo sito, che ricordiamo è antoniomoscato.altervista.org. Questo libro parla appunto del rapporto che è intercorso tra Ernesto Guevara e Fidel Castro, due storici leader della rivoluzione cubana, uno morto durante la sua azione, il suo sostegno internazionalistico alle rivoluzioni in quel continente, in Bolivia, l'altro che ha rassegnato che ha lasciato il potere pochi anni fa in seguito ad una malattia. E Antonio, perché un libro su questi due rivoluzionari diversi, uniti da un reciproco rispetto, ma molto diversi e che ci parlano comunque di una storia di oltre 40 anni fa. Ma intanto perché sono tutti e due molto vivi. Intanto lo stesso Fidel Castro, che sembrava, diciamo, spezzato dalla malattia, è stato capace quest'anno di ritornare a votare e a farsi eleggere nell'Assemblea Nazionale, dimostra una vitalità e una vivacità notevole, eccetera. Ma è vivissimo Guevara, che è un punto di riferimento anche maggiore della Cuba attuale. È il progetto originario di Cuba, che in parte si era offuscato nel corso degli anni 70 e 80, che viene incarnato da questa figura, e una parte del libro è affrontato proprio a cosa rimane di Guevara. Non è moltissimo, nel senso che i nuovi regimi bolivariani o del socialismo del XXI secolo sono assai più moderati di quello che è stata la rivoluzione cubana all'inizio, non hanno portato a termine la distruzione completa dell'apparato statale, militare, giudiziario, eccetera, e quindi sono più vulnerabili. Diciamo, Cuba, con tutti i suoi difetti, si è assicurata una vitalità anche nonostante difficoltà enormi. Però, diciamo, a Guevara fanno riferimento tutti quelli che vogliono andare avanti e cambiare le cose. Nel libro, peraltro, si parla anche abbondantemente di Chavez, che ovviamente Guevara non poteva conoscere, però Chavez fa riferimento spesso a Guevara. E si parla di Chavez confrontandolo a Fidel, perché in effetti le loro biografie hanno delle analogie importanti, io ho cercato di ricostruire, appunto, in un capitolo che si chiama Vite parallele di Castro e Chavez. In parte è evidente che Chavez si sente un alunno rispetto a Fidel Castro, e quindi ci sono delle cose che sono ricalcate, che riproducono il modello di Fidel Castro, che è il suo maestro, però hanno delle analogie fin dall'inizio importanti. E non immaginavo certamente, quando ho scritto questo, che dovessimo dare l'addio a Chavez prima che a Fidel Castro. Ed è un... dopo la sua morte ci rendiamo conto di quanto ci mancherà, perché la sua figura non è facilmente sostituibile. Questa è una parte notevole della riflessione anche di questa sera, credo. Cioè, Chavez ha avuto un ruolo straordinario proprio come persona, nel senso che ha sospinto in avanti sia un processo di trasformazione del Venezuela che era cominciato, diciamo, nell'89 con il Caracas, con un sommovimento popolare disperato e confuso che era stato represso con migliaia di morti, il processo di trasformazione si era personalizzato in questo strano leader di provenienza militare, un militare di gradi intermedi, eccetera, e che ha avuto però una forza straordinaria unificante nel continente. Cioè, Chavez in questo non ha mentito quando parlava di un progetto bolivariano, perché come Bolivar voleva un'unità del continente. E ha cercato non solo di unire nell'alba alcuni governi più vicini e più affini tra di loro, più a sinistra degli altri, ma di ricucire una rete con tutti i paesi importanti del continente, quindi col Brasile assai più moderato, col Cile anche quando la Bachelet è stata sostituita da Piñera, che è assolutamente conservatore, cercando quindi creare un blocco continentale che permette di resistere meglio alle pressioni degli Stati Uniti e anche di contrattare con altri paesi come la Cina, che opera fortemente nel continente, di contrattare congiuntamente. E questa è una cosa molto importante. È difficile che qualcuno possa sostituirlo a breve scadenza. Naturalmente potrà essere sostituito in prospettiva, ma è difficile che sia un venezuelano ad avere lo stesso prestigio che aveva lui e la stessa forza di trascinamento che aveva Hugo Chavez. Altri paesi sono o troppo piccoli, come l'Ecuador e la Bolivia, e l'Argentina ha problemi grandi, che erano già gravi nell'ultimo periodo: la difficoltà di trovare un successore per Cristina Kirchner nella stessa linea, perché ci sono parecchie insidie, e ora sono aggravate dall'esistenza di questo Papa che darà del filo da torcere a tutti i progetti di progressisti e di rinnovamento dell'America in nome della povertà, delle elemosine ai poveri, perché i poveri rimangano poveri. Ecco, in questo senso sentiamo quanto è stato importante Chavez, che ha speso anche generosamente le risorse del Venezuela per intervenire in momenti critici, per acquistare una parte del debito argentino, per aiutare non solo Cuba ma anche altri paesi dei Caraibi, eccetera. E quindi da questo punto di vista ha fatto moltissimo. Bisogna vedere come riusciranno i successori, e probabilmente il 14 aprile tutti i commentatori prevedono un successo di Nicolás Maduro, il vicepresidente designato da Chavez come suo successore. È molto probabile, diciamo al 99,9%, la sua vittoria, ma bisogna vedere se avrà poi la statura sufficiente per, diciamo, promuovere questa unità, che è difficile perché sono paesi con caratteristiche diverse, con economie diverse, in cui c'è il peso enorme del Brasile, che resiste un po', da un lato è più vicino all'area progressista, ma resiste a delle misure, diciamo, di concertazione, perché ha dei suoi interessi molto forti in tutti gli altri paesi. Viene considerato un po' un paese subimperialista. E infatti ricordiamo anche che appunto nell'operato di Chavez c'è anche ultimamente c'è stato anche un riavvicinamento con la Colombia, e quindi non proprio un paese che potremmo definire ribelle alle egemonie statunitensi. Quindi appunto c'è stata questa capacità di dialogare a livello continentale. Anzitutto ricordo che ovviamente potete inviarci le vostre domande o ce le inviate sulla nostra pagina Facebook o ce le inviate via tramite Skype. Ricordiamo, il contatto è radio.default. Inviateci le vostre domande, le vedremo tutte alla fine, o magari passate in radio e ce le fate proprio in viva voce. E, e tornando alla discussione, abbiamo visto che ora successore per ora ad interim di Chavez è questo Nicolas Maduro, che spesso viene indicato come esponente della boliborghesia, cioè non come esponente della boliborghesia, ma vicino alla boliborghesia. E che cos'è questa boliborghesia e come si giustifica agli occhi di un mutamento sociale come quello del socialismo del XXI secolo? Ma no, veramente Nicolás Maduro non è indicato come il maggiore esponente della boliburghesia. Certo esiste la boliburghesia, ma casomai si pensa subito a Diosdado Cabello, che è il presidente dell'Assemblea Nazionale e che è stato trombato in tutte le elezioni a cui ha partecipato e poi recuperato da Chavez, perché lo considera prezioso come trade union, legame con i militari. I militari, e questo è bene chiarirlo per tutti, i militari in Venezuela, in Bolivia, in Ecuador, in Brasile, in Argentina sono quelli del passato, non erano uguali tra i vari paesi, non erano così golpisti e non erano così di destra in Venezuela, ma e avevano conosciuto dei momenti di governi semi progressisti di riformismo militare sia in Ecuador che in Perù. Ma nell'insieme avevano uno Stato maggiore in ogni paese, formato nelle escuelas de las Americas, fatte a Panama dagli Stati Uniti. Quindi il fatto che non si sia toccato la struttura dell'esercito è un elemento lievemente inquietante, perché pesa non a livello golpista ma di pressione. E probabilmente Diosdado Cabello, esponente oltre che della boliburghesia, molto legato ai militari venezuelani, era un po' una garanzia del tranquillo rapporto con l'esercito. E invece la boliburghesia sono quelli che si sono arricchiti col processo bolivariano, cioè la corruzione negli strati superiori delle aziende di Stato, e la gente lo sente molto, perché c'è una sensibilità molto forte, c'è una critica costante, quindi da questo punto di vista c'è una pressione perché la rivoluzione vada avanti e faccia pulizia. Ci sono vari slogan, dice, le elezioni erano il 3 ottobre, dice, o il 7 ottobre, dice il 7 ottobre votiamo Chavez, ma l'8 ottobre cominciamo a combattere la boliburghesia, cominciamo a combattere la burocrazia dell'apparato statale. Quindi da questo punto di vista c'è questo elemento. Il problema è che non ha una statura, anche se è stato ministro degli esteri, ma la presenza di Chavez era tale che non, era un collaboratore subalterno, non è un trascinatore. Questa è la difficoltà maggiore. I venezuelani lo considerano assolutamente, qualcuno non sarebbe d'accordo sul dire meno peggio, ma anche alcuni di quelli critici dicono è il meno peggio, alcuni lo ritengono il migliore in assoluto, soltanto che bisogna che arrivi all'altezza di poter essere un protagonista continentale in un continente tanto differenziato, non meno differenziato di quanto non sia l'Europa tra Cipro e la Svezia, che è molto diversa. Quindi questo è il problema maggiore. Altra cosa da tenere presente è che il Venezuela potrebbe conoscere qualche difficoltà, perché ha un tasso di inflazione più elevato di tutti gli altri paesi del continente e ha un petrolio, il petrolio tradizionale del Venezuela, ottimo in buona quantità, ma secondo parecchi osservatori, è tendenzialmente in esaurimento e dovrebbero cominciare a sfruttare invece le sabbie bituminose dell'Orinoco, che hanno problemi enormi di costi e di inquinamento. Infatti si parlava di estrarle quando vi fu il grosso picco dei prezzi petroliferi nel 2008, quando calarono i prezzi, là sorse il problema. Sì, no, anzi, il problema invece viceversa per gli ecologisti, per gli ambientalisti, non è un problema ma un vantaggio. Anche in Venezuela avevano fatto una grande battaglia, anche in Canada, come in Venezuela, avevano fatto una battaglia gli ambientalisti contro lo sfruttamento delle sabbie bituminose nello stato dell'Alberta, nel Canada. Però non ottenevano niente fino a che il prezzo è sceso sotto gli 80. Quando comincia a scendere il prezzo, allora lo accantonano. Perché ci vogliono addirittura 5 volte, per ogni barile di petrolio ci vogliono 5 barili d'acqua per estrarre il petrolio dalle sabbie bitumine. E quest'acqua poi dove viene messa? Deve andare a finire nelle falde acquifere. Dovrebbero essere assolutamente, e questo è un inconveniente, e comunque anche costoso. E abbiamo un intervento Lallo della Meticcia Crew che ci arriva in regia. Lo mettiamo in coda d'attesa per le domande. E quindi c'è questa, che gli ecologisti, per loro è stata una salvezza, per il paradigma sviluppistico un po' meno. Quindi c'è questa tensione. Diciamo che gli ambientalisti sono particolarmente forti in Ecuador e in Bolivia e anche in Brasile. In Venezuela non hanno una presenza politica attiva molto visibile, diciamo. In Venezuela hanno spesso contestato alcune particolari scelte, eccetera, ma non hanno sviluppato una critica complessiva. Un po' tutti questi paesi in realtà contano soprattutto sull'esportazione e quindi sull'estrattivismo di minerali e di petrolio, e questo anche a costo di rendere vane le belle costituzioni che hanno scritto, in particolare in Ecuador e in Bolivia, in cui si dice che la madre terra, la Pachamama, diciamo, ha dei diritti garantiti dalla Costituzione, ma poi in realtà questi diritti rimangono sulla carta se le compagnie petrolifere hanno bisogno di acqua e la prendono e scaricano rifiuti nelle stesse foreste. Quindi è un problema, è una contraddizione profonda. D'altra parte non è così facile dire dovete rinunciare, perché non è facile rinunciare e cambiare l'impostazione di un paese. Sì, ricordiamo che questi paesi, sebbene siano stati la prima ondata, siano stati protagonisti della prima ondata di decolonizzazione che ha visto il nostro paese, si caratterizzano tuttora per un'economia fondata sullo sfruttamento coloniale, quindi produzione dei cosiddetti cash crop, quindi materie prime, minerali, ma penso anche ora all'Argentina con la soia. Produzione della soia, che è transgenica, crea gravissimi problemi ai terreni e quindi pone un'ipoteca sul futuro di questi stati, o almeno di questo processo di emancipazione continentale. Se non riescono a diversificare l'economia. Certo, questo è un problema grandissimo e vale anche per il Brasile, dove ci sono stati conflitti tra la pastorale operaia e indigena e i progetti del governo di creare delle dighe per potenziare l'agricoltura estensiva e produzione di soia. L'Argentina è condizionata dai produttori di soia, non parliamo di Paraguay, Uruguay e anche nella Bolivia. Le province secessioniste che adesso hanno fermato i progetti secessionisti, ma hanno rotto parecchio le scatole negli anni passati, sono tutte legate alla produzione di soia collegata al Brasile. Quindi sono problemi grandissimi. Ma diciamo la sensibilità maggiore è per proprio l'estrattivismo minerario e petrolifero, e questo è un problema difficilmente solubile, tenuto conto che poi per difendersi dall'imperialismo degli Stati Uniti hanno stretto rapporti importanti con la Cina, che è presente in tutto il continente in maniera con crediti, con la creazione di infrastrutture, però accaparrandosi diciamo diritti minerari eccetera, come fa anche in Africa, in modo di avere praticamente il monopolio di alcuni minerali che è molto importante su scala mondiale. Quindi da questo punto di vista non è interessato, hanno un nuovo alleato non interessato però a frenare questo orientamento dell'economia di questi paesi. Quindi, e d'altra parte sono abbastanza minoritarie quelli che criticano questi modelli, come può essere stato in Ecuador Alberto Acosta, che era stato il primo a progettare il progetto di lasciare una parte del petrolio sottoterra, chiedendo ai paesi che si dichiarano per la salvezza del pianeta di intervenire e di dare un contributo per rendere sopportabile questa perdita di produzione petrolifera nelle zone forestali amazzoniche più importanti. E, detto questo, rimaniamo sempre sull'ambito regionale, poi magari vorrei un attimo tornare dopo sulla questione Venezuela. Oltre ovviamente al paradigma sviluppista, produttivistico che questi paesi da una parte anche sono costretti a tenere perché non si cambia un'economia dall'oggi al domani, come anche devono cercare alleati esterni. C'era una economista tendenzialmente liberista, quindi non un anticapitalista, una economista dello Zimbabwe, Dambisa Moyo, che diceva che i cinesi ovviamente non porteranno un mutamento, non stanno facendo un'azione antiimperialistica nel loro ingresso, lei parlava specificatamente dell'Africa, ma ovviamente anche in America Latina, ma è semplicemente come una partita di poker. Gli americani o gli europei danno 10, i cinesi hanno la possibilità di rilanciare. Hanno il quinto asso. No, anche solo di rilanciare su 15 o su 20, e quindi è anche giusto che quei paesi scelgano chi offre di più. Però ovviamente la politica estera di questi paesi non si è soffermata unicamente sulle alleanze, sull'ingresso economico della Cina o magari il sostegno anche a soggetti discutibili come l'ex dittatore libico Gheddafi o con l'attuale dittatore siriano Bashar al-Assad. Hanno anche avviato un percorso di coordinamento delle proprie economie che si chiamava ALBA, l'Alleanza Bolivariana dell'America Latina. E che cos'è quest'ALBA? Quali sono i suoi cardini? Su cosa si fonda? Se è soltanto un'Unione Europea, potremmo dire, in chiave latinoamericana, o è qualcos'altro? Beh, parziale. Per essere un'Unione Europea bisognerebbe integrare tutti gli altri aspetti programmati che sono il Banco Sur, sono troppe le strutture e non coincidenti. L'ALBA è più il coordinamento dei paesi con governi relativamente di sinistra e accoglie Cuba e Nicaragua, infatti, che però non è che siano molto dinamici, poi ci ritorneremo eventualmente su Cuba, però manca il Brasile, mancano dei paesi importantissimi, eccetera. L'insieme il vero problema è che, per esempio, il Banco Sur, che era essenziale, non è partito, perché se non entra il Brasile, che ha un potenziale enorme, non decolla. I fondi investiti in questa banca comune sono insignificanti e non sono sufficienti, mentre il Brasile è in grado di fare prestiti alla Banca Mondiale e quindi c'ha una sua banca di sviluppo che è molto attiva in molti paesi. Tra l'altro il Brasile opera non solo con Petrosur, Petrobras, ma anche con la Vale d'Oriodose nel settore minerario, la Odebrecht, che è un po' come la nostra in Pregilo, opera in quasi tutti i paesi, e, diciamo, assicurandosi commesse importanti e, diciamo, con caratteristiche non diverse da quelle di un paese imperialista. Quindi sono, però ha un legame prioritario con la Cina, un'alleanza stretta e importante. Diciamo, tanto per chiarire, le critiche che uno può fare non tolgono nulla al fatto che questo processo avviato è una spina nel fianco degli Stati Uniti, che certamente gli Stati Uniti avrebbero preferito che non ci fosse nessuno di questi governi. Dopodiché noi sappiamo e abbiamo il diritto e il dovere di dirlo che ci sono delle contraddizioni, che in parte è insufficiente questo processo, e che ci sono dei pericoli rappresentati dal mantenimento di un apparato statale borghese, militare, poliziesco, eccetera, e che quindi, per esempio, in Venezuela, proprio nei giorni in cui è morto Chavez, è stato ucciso Sabino Romero, che era un leader indigeno. Sono una piccola minoranza gli indigeni in Venezuela in confronto a quello che sono in Ecuador o che sono in Bolivia, però è una cosa, era stato già arrestato 2 anni fa a lungo da giudici che erano giudici reazionari, conservatori, per occupazione di terre, cioè, e ora è stato assassinato in quei giorni, come accade in Brasile, che molte volte vengono assassinati dei leader contadini e dei leader indigeni. Quindi quando noi segnaliamo queste cose, per segnalare le contraddizioni del paese, non dei limiti intenzionali dei dirigenti, bisogna capire questo e non rappresentarci il paese come lo vorremmo, ma come è. Quindi abbiamo capito che, abbiamo chiarito che non siamo né filoamericani, né tantomeno dei rottamatori, sono processi, appunto, come abbiamo iniziato dicendo, che Chavez ci mancherà, però è anche opportuno capire quali sono i limiti, anche superabili e anche scusabili, delle situazioni. Io ora vorrei ritornare un attimo sul, sempre parlando di Chavez e del Venezuela, vorrei ritornare un attimo sulla questione, appunto lasciare l'ambito regionale un attimo e ritornare proprio sul Venezuela, su Caracas. Ora, noi abbiamo, se si guardano i media mainstream, abbiamo Repubblica o il Corriere con Homero Chai o altra stampa, appunto, mainstream, che hanno continuamente, soprattutto 5-6 anni fa, mi ricordo, quasi diffamato il governo di Chavez, il governo bolivariano. Hanno diffamato il governo bolivariano dicendo che era un governo dittatoriale, antidemocratico, comunista, loro lo leggono in un'accezione negativa. Noi sappiamo che non era un governo comunista, però insomma loro intendevano appunto un vecchio regime sovietico di stampo staliniano, o repressione del dissenso, elezioni truccate e via dicendo. Ma poi tu ci hai detto prima che il referente politico della cosiddetta boliborghesia è stato ripetutamente trombato alle elezioni, e questo è un e oltretutto, leggendo i giornali, ci ricordiamo bene che uno dei vari referendum costituzionali promossi da Hugo Chavez, quel referendum costituzionale che avrebbe previsto la possibilità di ricandidatura senza limiti di mandato per il Presidente della Repubblica, è stato bocciato poi alle urne, e presumibilmente dagli stessi votanti, certo, le stesse persone che lo avevano votato. Quindi Venezuela dittatoriale, Venezuela... come funzionano le urne venezuelane? Allora, prima di tutto, dal punto di vista dell'informazione, i giornali più accaniti contro il Venezuela, tu hai già nominato Le Repubblica e il Corriere della Sera. Ma la spiegazione di fondo è che più di tutti è il País, l'organo del Partito Socialista, cioè vicino al Partito Socialista Spagnolo. Perché ce l'hanno tanto? Perché in America Latina l'imperialismo che ha fatto più danni negli ultimi 20 anni non è quello statunitense, ma quello europeo, quello italiano e spagnolo in particolare. L'Argentina, quando è stata rovinata, il debito argentino era tutto contratto con imprese spagnole e italiane, sia chiaro, e quindi è per questo sono accaniti con chi ha messo in movimento un processo di liberazione magari insufficiente ma che va nella direzione giusta. Questa è la prima spiegazione. Per farlo mentono. Sì, tra l'altro ricordiamo una conferenza internazionale tra i paesi latinoamericani e la Spagna, il re spagnolo Juan Carlos se ne uscì con un "porché no te callas", perché non ti stai zitto. Sì, quella era una questione di arroganza di un vecchio stronzo come il re di Spagna, odioso eccetera, però l'atteggiamento generale era che è reazionario il re di Spagna, ma anche i socialisti hanno fatto questo e in Italia Omero Chai era corrispondente dell'Unità prima di essere di Repubblica, chiariamo. E ricordiamo che Zapatero difese poi il sostegno che il suo predecessore aveva dato al golpe del 2002, certo, sempre in Venezuela. Ma allora nel golpe del Venezuela del 2002 c'era tra i protagonisti e nel comitato organizzatore Marisa Bafile, che il PD, ancora forse era, si chiamava PDS, ha candidato poi alle elezioni ed è stata deputata nel Parlamento italiano, ma era una golpista vicina, allora è legata a quella comunità italo-venezuelana ultra reazionaria. A me mi hanno portato per vederli al circolo italiano del Venezuela, veramente vedi sembrano caricature di Grost, questi capitalisti eccetera italiani, e che hanno in vari convegni organizzati anche da area PD, e senti, ci sono ospiti che rivelano il disprezzo razzista verso il muso di scimmia Chavez, perché c'era un atteggiamento, dicendolo indirettamente, questo governo che si è appoggiato su della gente primitiva, rozza, scatenata. È vero che in certi casi è stato determinante la popolazione che scendeva dalle condizioni di vita terribili dei barrios sulle montagne intorno a cose, scendeva quando vedeva in pericolo la rivoluzione. Per capire la differenza di visuale, io porto un episodio che a me è colpito moltissimo, perché non ho mai trovato accenni a questa cosa in Italia, nella stampa italiana. C'è uno dei tanti barrios, diciamo, dei quartieri popolari di case autocostruite, di baraccopoli, insomma favelas le chiamano in Brasile, che contrastano con i grattacieli ultramoderni del Venezuela Saudita, lo chiamavano negli anni pre-Chavez, con un'ostentazione di lusso, di ricchezza, di architetti moderni eccetera. Questo quartiere era stato praticamente tagliato fuori da frane eccetera, c'era solo una strada in cima che doveva fare 20 km per scendere in città con un giro. Chavez che ha fatto? Ha costruito e messo a disposizione gratuita un'ovo via con 8 posti ciascuno, ma a getto continuo, che serve 6 stazioni. E ci sono dei vecchietti che da anni non potevano scendere perché dovevano fare 400-500 scalini e che adesso possono andare in centro, in città a vedere. Allora è chiaro che chi ha ricevuto queste cose gratuitamente fatte dallo Stato è grato a questo Stato. Quanto alla dittatura, vorrei ricordare che la stragrande maggioranza della stampa e la maggioranza delle catene televisive sono di proprietà dell'opposizione. E sono addirittura, diciamo, la critica che posso fare ai chavisti è che anche la televisione di Stato che hanno costruito e anche Telesur fatta con i consulenti cubani non ha un indice di ascolto molto elevato, ma non ce l'ha perché la gente è abituata a certi prodotti, come da noi i canali berlusconiani, che quando c'è, che ci sono alcune persone che sono proprio drogate da certo tipo di spettacoli. Allora, però no, c'hanno tutta la possibilità di trasmettere, di fare, di orientare la gente, di influenzare, quindi non è una dittatura assolutamente. E da questo punto di vista credo che si tratta di difendere costantemente questa esperienza e ricordare sempre delle cifre, cioè io per esempio scrissi quando Chavez a uno dei canali televisivi che si chiamava Radio Caracas Television gli era scaduto il permesso per trasmettere nell'aria, trasmettere direttamente nell'etere, sì. Nell'etere non gliel'ha rinnovato, però ce ne rimanevano altre tre importanti di cose. Poi rimaneva il Via Cavo, che per lor signori hanno tutti la televisione Via Cavo nei quartieri di lusso, eccetera eccetera, e io ho detto poteva anche fare a meno di toglierglielo, perché tanto su quello hanno gridato dappertutto alla sopraffazione, ma non dicono che anche e soprattutto sulla stampa italiana, e spagnola, ed era una calunnia, perché in realtà rimanevano abbondantissime voci non punite in quanto tale, perché effettivamente applicare una norma di questo genere si presta a una campagna scandalistica, non valeva la pena, perché tanto ce n'hanno tanti di cose. Casomai io dicevo è meglio potenziare, rendere più efficace e più vivace le televisioni, anche se appunto non è facile modificare i gusti, perché poi i poveracci magari la televisione non ce l'hanno in paesi così poveri, e quindi la piccola e media borghesia ha modelli elevati che vengono soddisfatti di più da queste grandi catene commerciali che sparano telenovelas a tutto spiano, eccetera. Quindi da questo punto di vista direi la questione fondamentale dell'attaccamento, io ho portato l'esempio del barrio San Agustino e di questa cabinovia, ma volevo segnalare un'altra cosa importante. Fondamentalmente quando ci sono state alluvioni eccetera, immediatamente ha messo a disposizione caserme, scuole eccetera, e poi un programma di costruzione di case straordinario e visibile, e quindi centinaia di migliaia di persone hanno ottenuto una casa migliore. Certo che ce n'erano milioni che vivevano in case terribili e che la sostituzione non è facile e non è sufficiente. In ogni caso agli strati popolari è stata assegnata per esempio a chi manda i bambini a scuola, e ce n'erano milioni che non andavano a scuola, perché c'è un buono, mi pare che sia di circa $20 al mese, che sembra poco, ma chi non ha mai ricevuto niente e di colpo riceve questa cosa, più il bambino a scuola c'ha la mensa, c'ha la merendina la mattina e poi il pranzo se la scuola è continuativa, c'è la sanità gratuita organizzata utilizzando decine di migliaia in certi periodi di medici cubani, uno scambio, i cubani forniscono medici, allenatori sportivi, maestri eccetera, che hanno portato dove lo Stato venezuelano non arrivava, nelle periferie povere, nelle cose, hanno portato assistenza sanitaria. Anche quella sportiva non è da trascurare, perché i giovani trovano il modo di occuparsi e di aggregarsi, e quindi è più facile poi portarli verso la scuola, in questo modo. Quindi da questo punto di vista ci sono state le conquiste che spiegano il legame profondo col chavismo. Le elezioni in cui ci sono stati gli insuccessi, era sempre, cioè, era una sola in cui è andata male, poi ci sono state qualche elezione di qualche regione, cioè si chiamano province lì, ma insomma, o stati, ma sono strutture paragonabili alle nostre regioni, e nel caso di Cavegno era una candidatura due volte in due regioni diverse, ma perché era un po' paracadutato. In ogni caso c'è stata una percentuale di astensioni molto forte ogni volta che non si trattava di rileggere Chavez, mentre se era un'elezione presidenziale la percentuale era forte, cioè la gente è attaccata a Chavez e meno attaccata ai suoi collaboratori. Ora vedremo come si conquisteranno la fiducia nei prossimi mesi e anni. Quindi io direi che possiamo prenderci anche una piccola pausa. Ritorniamo fra qualche minuto, ci riposiamo i gargarozzi e passiamo alle domande. This is the song about the union friends, how they fucked you over and the way they bend. The rules to suit a special few, and you get pooched every time they do. You know we gotta stick together. Was good if only they'd have done what they said they would. It ain't no better, it's making it worse. The labor movement got the mafia curse. You know we gotta stick together. We gotta stick together. You know we gotta stick together. Stick together. We gotta stick together. You know we gotta stick together. Don't be no fool, don't be no dope. Common sense is your only hope. When the union tells you it's time to strike, tell the motherfucker to take a hike. Could do. kitty and then drove a bar. Well, she picked up from Georgia, moved to Kalamazoo. Made her a fortune out of fools like you. Met her a rich man who was married and had two kids. She stoked that cat until he flipped his lid. And then drove afar. But she came back to town about a week ago. Told me she was sorry she had hurt me so. I had a 55 Ford and a $2 bill. And when she took that man, she gave me a chill. She took my watch and chain. She took my gallery. She took my calico. Jumped in my kitty and then drove afar. Man with a woman head, Polynesian wallpaper made the face stand out. A mixture of Oriental and early vaudeville jazz poofed her, forming a hard, beetle-like triangular chin, much like a praying mantis. Smoky razor cut low on the ear, neck profile. The face the color of a nicotine-stained hand. Dark circles collected under the wrinkled, folded eyes, map-like from too much turquoise eye paint. He showed his old tongue through ill-fitting wooden teeth, stained from too much opium, chipped from the years. The feet brown wrinkles above straw loafers. A piece of coconut and a pink seashell caught the tongue and knotted into thin white strings. Charcoal gray Eisenhower jacket zipped into a load of green ascot. A coil of ashes collected on the white on yellow dacks. Four slender bones with rings and nails endured the weight of a hard, fast, black rubber cigarette holder. I could just make out Ace as he carried the tray and mouthed, "You cheap son of a bitch," as a straw fell out of a coke and cartwheeled into the gutter. So this was a drive-in restaurant in Hollywood. So this was a drive-in restaurant in Hollywood. So this was a drive-in restaurant. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people, like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it did. Nothing. Girl, you thought it was a man, but it only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. We'll be right back. Fowler on trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Jerry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. E dei ringraziamenti di Frank Zappa ci importa poco, sfumiamo la canzone e ritorniamo in diretta. Stiamo su Radio Default, ricordiamo sempre, per chi si è collegato all'ultimo istante, che ricordiamo i nostri recapiti: www.radiodefault.it. Cercate, se volete intervenire in diretta, aggiungeteci su Skype radio.default, e ci trovate anche su Twitter e su Facebook con Radio Default, sempre Radio Default. Siamo qui oggi con, abbiamo ripreso le nostre trasmissioni sull'internazionalismo, ritorniamo in America Latina, visto che siamo la radio locale ma a vocazione universale, siamo qui oggi con Antonio Moscato, docente di storia del movimento operaio all'Università di Lecce e studioso esperto dei paesi latinoamericani. Parliamo di appunto America Latina, morte di Chavez, prospettive del processo bolivariano, insomma cosa si sta muovendo in questo continente che da 200 anni a questa parte è un continente cruciale che vede sempre gli occhi del mondo incollati su di esso e che ci lascia sempre molte sorprese. Allora, parlavamo di Chavez e ci arrivano le prime domande dal pubblico. La prima è di Christian che ci chiede come convivono all'interno del partito chavista, ma sarebbe meglio dire il PSUV, il Partito Socialista Unificato Venezuelano, come all'interno del Partito Socialista Venezuelano convivono l'ala marxista e l'ala militarista. Innanzitutto spiegandoci magari cosa sono per noi. Ecco, non ci sono, perché ci sono delle tendenze, ma non c'è. È un partito da un lato composito, ma che non ha una intensa vita democratica. Tra l'altro, nel periodo in cui si è formato, ha fatto prima uno statuto e ha provveduto a espellere alcuni che facevano critiche, e il responsabile di questo era quel Diosdado Cabello che abbiamo nominato prima, che non è ala militarista, ala che ha buoni rapporti con i militari ed è un esponente della boliburghesia, è una cosa un po' diversa, perché non è, se uno dice militarista pensa che la debba che voglia un'attività di tipo particolare. Allora, da questo punto di vista diciamo che è insufficiente. La riprova è che quando c'è stato il famoso referendum, l'unico perduto, ma più che per la norma sulla rielezione di Chavez, che quando è stata ripresentata in un pacchetto più piccolo di proposte di emendamento della Costituzione è passata, è perché aveva preteso di far cambiare in blocco 69 articoli di una Costituzione che aveva voluto proprio Chavez e che era già Costituzione bolivariana. Per questo erano nati i sospetti e la destra aveva ottenuto dei risultati. Nel momento in cui è avvenuto questo tipo di insuccesso, diciamo, perché ci fu indubbiamente, venne fuori che i voti erano 2 milioni di voti meno degli iscritti nominali al Partito Socialista Unificato di Venezuela, che vuol dire che è un partito non vitale se non riesce a mobilitare non solo fuori ma nemmeno tutti gli iscritti. E questo è successivamente è stato corretto, soprattutto riducendo e rendendo più comprensibili le domande, ma non esercita una funzione di vero partito rivoluzionario. È un po' per alcuni diciamo una tessera quasi obbligata, per altri diciamo è un modo per organizzare ma delle masse abbastanza passive. Poi ci sono dei partiti fuori, c'è un partito comunista del Venezuela che ha appoggiato Chavez ma dall'esterno, e altre piccole formazioni, e che ha dato l'indicazione di voto per Chavez, ben inteso. E quindi è una situazione di debolezza dal punto di vista della strutturazione di un vero partito, ma questo vale per tutto il continente. L'Argentina vede dei partiti marxisti piccoli e conflittuali tra di loro in maniera straordinaria, imprevedibile, diciamo. E per quanto riguarda viceversa, è l'unico paese in cui c'era un vero partito, un partito strutturato, che era il Partito dei Lavoratori, Partito del Travagliatore brasiliano, si è fortemente indebolito per scissioni, corruzione, scandali, lo scandalo del Mensalão, che era, diciamo, sono stati ripresi mentre distribuivano contributi per comprare dei voti in Parlamento, delle cose sgradevolissime, per cui proprio nella culla del PT a Porto Alegre il PT ha avuto solo il 9%, stava all'interno di una coalizione che ha vinto, ma questa coalizione ormai non ha più niente a che vedere col progetto originario, che era molto interessante e molto positivo. In tutta l'America Latina mancano dei partiti vitali, critici, dinamici, che sostengano i processi rivoluzionari e gli pongano dei paletti per impedire che facciano dei passi indietro. Questo è il punto di debolezza principale dei processi bolivariani, chiamiamoli per convenzione, o di socialismo del XXI secolo. E quindi questa è la risposta. Ci abbiamo anche un'altra domanda, o meglio, un pezzo di, più che una domanda, è un frammento di discussione. Ricordatevi sempre che se non ci volete, se avete le ditine pesanti e non volete scrivere su Facebook o su Skype, potete sempre venire in trasmissione. Infatti qua abbiamo Lallo che vuole chiedere qualcosa. Sì, buonasera a tutti. Io volevo chiedere gentilmente, più che chiedere, un commento su, appunto, sulla situazione che si sta creando in Patagonia, in Sud America, quindi fra Cile e Argentina, riguardo la costruzione di queste benedette dighe da imprese italiane, quindi questa situazione che si è creata con movimenti di protesta che partono a cavallo di vere e proprie popolazioni contadine, popolazioni indigene, che appunto si ritrovano a combattere ogni giorno contro queste imprese che sono la maggior parte italiane, che vogliono rubargli l'acqua che serve a loro, appunto, per le coltivazioni, per le bestie, eccetera eccetera. Anche perché poi questa costruzione di queste dighe porterà innanzitutto alla chiusura di alcuni corsi d'acqua e, come dicono anche, diciamo, leggendo sui vari siti internet cileni, eccetera eccetera, un innalzamento anche della temperatura terrestre, in quanto, appunto, verranno chiusi, diciamo, dei corsi d'acqua di proporzioni gigantesche, di proporzioni enormi. Ecco, volevo chiedere un commento, qualche notizia in più riguardo questa situazione che si è creata. Notizie in più no, perché io seguo soprattutto i paesi, diciamo così, convenzionalmente dell'alba, ma in realtà anche Brasile e Argentina, cioè quelli che sono più considerati più di sinistra, eccetera. Ma le fatte del genere le imprese italiane le fanno da tutte le parti, le stanno facendo in Africa, le stanno facendo in Turchia, diciamo, e sono dighe che danno fastidio, poi che provocano danni anche in altri paesi, in Iraq, che provocano. E quindi da questo punto di vista è una costante. Noi non ne sappiamo niente, ma l'imperialismo italiano è presente attivamente con contributi dello Stato che li aiuta, li finanzia, gli dà anche, magari in certi casi, anche se si viene a sapere poco, anche un supporto militare per la sicurezza, perché come lo danno alle navi che vanno in giro, eccetera. E questo è una cosa che noi dobbiamo, su cui dobbiamo informarci di più e condannare. Questi disastri ci sono dappertutto. Diciamo che alcune a me preoccupano di più le cose che vengono fatte da governi progressisti, perché contraddice i loro progetti iniziali, contraddice. In Bolivia, per esempio, un'autopista, un'autostrada che distrugge e rompe l'isolamento di popolazioni in autoisolamento, cioè popolazioni che non vogliono entrare a contatto con l'ambiente urbano, eccetera, e che invece sono interessanti per i produttori di soia, per valorizzare determinate cose. Mi preoccupano più quei paesi e li seguo di più. Ho letto anch'io le notizie che segnalava il compagno di origine cilena, se non mi sbaglio, e che quindi giustamente si preoccupa del suo paese. Però no, l'unica attenuante per il suo governo è che è indubbiamente di destra. Totalmente, direi quasi. E infatti anche per questo che poi, diciamo, la cosa è seguita soprattutto da appunto movimenti di popolazione locale più che da partiti cileni, perché certo, non c'è un vero e proprio movimento cileno, un partito cileno che si occupa appunto di questa ambientale, di questa causa, ecco, esatto. E d'altra parte anche in Argentina ci sono fenomeni del genere e così via. È praticamente, ma non c'è parte del mondo in cui non si facciano lavori. A me preoccupa per esempio dighe in Brasile per favorire, diciamo, distruggendo dei territori, ma per irrigarne altri che servono alla produzione di soia, eccetera. Quindi questa è la questione più interessante. La ringrazio e buona serata. E nel frattempo ci è arrivata anche un'altra domanda. E, ci chiede un ascoltatore qua in radio se ci sono settori in Venezuela che premono per un'accelerazione in senso rivoluzionario all'interno di questi processi di trasformazione bolivariana. Ci sono, ma è difficile quantificarli, dato l'insufficiente strutturazione democratica del PSUV, che è un partito assolutamente non dittatoriale, ma non... c'è la stessa democrazia che ci può essere in un partito tipo il PD o che c'era in Rifondazione, insomma, che non è che c'è una discussione adeguata e corrispondente. Allora ci sono tante singole personalità di sinistra che scrivono e vogliono questa accelerazione, che hanno criticato delle esitazioni sulla questione del debito che il Venezuela non ha affrontato a suo tempo e casomai ha impedito che si formasse un fronte latinoamericano sul debito, perché casomai ha finanziato il pagamento anticipato del debito argentino, eccetera. E quindi criticano questo, criticano il mancato denuncia fino a quest'anno del CIADI, che è il centro per le controversie internazionali sul debito, eccetera, che spingono, che hanno criticato la passività sulla riforma della scuola e dell'università. La scuola e l'università sono rimaste in mano non solo alle scuole private, ma università private, ma anche quelle pubbliche sono in mano a una consorteria di baroni accademici ultrareazionari, e l'unica cosa che è stata fatta in Venezuela è stata di costruire un'università bolivariana, ma che forma dei quadri per l'apparato statale, eccetera, che ha un'attività culturale vivace, eccetera, ma no, no, è una goccia, è un po' come un monastero di vita cristiana in un mondo, il resto del mondo dell'università è un mondo infame, dominato dai vecchi baroni e mobilitato spesso contro Chavez e contro il governo, perché se tu non fai la riforma universitaria e quindi anche le scuole pubbliche sono con un livello molto alto di selezione, eccetera, perché i docenti sono quelli precedenti, cioè non c'è stato un urto rivoluzionario, e invece ci sono dei docenti che minoritari in quell'ambiente che dicono dobbiamo fare una battaglia per cambiare l'università. E c'era un progetto di riforma su cui la destra gridava, piangeva, urlava che era reazionario, ma era giusto invece, e poi Chavez l'ha sospeso per un anno e poi è andato nel dimenticatoio e non l'hanno fatto, e dopodiché si ritrovano con gli studenti massa di manovra per la destra. E quindi ok, questa è la prima infornata di domande. ovviamente se volete farle, ricordiamo sempre, scriveteci su Facebook, su Skype o magari passate in radio e le fate direttamente. E ora continuiamo con più o meno potremmo dire l'attualità. Infatti, che era 2 settimane fa, è stato eletto dal conclave questo nuovo Papa, Francesco I, Arsecolo Bergoglio, vescovo argentino. Jorge Mario Bergoglio. Vescovo argentino, ovviamente, questa elezione, la Chiesa, siamo quasi tutti d'accordo che la Chiesa ha poco di spirituale ma tanto di materiale, soprattutto quando si parla di gerarchie ecclesiastiche, quindi un Papa sudamericano e soprattutto argentino, che credo che dopo la morte di Chavez l'Argentina sia forse il paese più delicato che può anche aiutare a portare avanti il processo di integrazione dell'ALBA. Può avere un processo involutivo. È il prossimo paese chiave dopo il Venezuela. Questo Papa, appunto, di sicuramente non un progressista o un francescano, come dicono ultimamente i nostri media, soprattutto schierato nel suo paese contro la presidenta Kirchner, e che proveniente poi da un continente dove c'è anche una sorta di guerra guerra vera e propria, però una guerra di religione anche con il maggior competitor del cattolicesimo, che sono le chiese evangeliche. Quindi questo Bergoglio. Ma io il giorno dopo l'elezione ogni persona che mi incontrava dice: tu che ti occupi dell'America Latina sarei contento che c'è un Papa latinoamericano, e qualcuno mi diceva, perché poi molti mi considerano mezzo argentino per varie ragioni, cioè sei contento un Papa argentino? Senti, di argentini ci sono stati, erano argentini tanto i desaparecidos quanto i generali torturatori, quindi l'appartenenza a un paese non significa nulla, bisogna vedere dove si schiera questo Papa. Diciamo che è stato presentato subito con un battage incredibile, diciamo che è abilissimo e straordinario un Papa che si presenta come un presentatore televisivo e dice: cari fratelli, care sorelle, buonasera, è proprio come direbbe un presentatore. In Brasile ci fu prima di Lula con Lorde Meglio, che era un presentatore, un anchorman televisivo, e riuscì per un certo periodo a attirare la gente che era abituata a vederlo sullo schermo e pensava che fosse giusto averlo pure come presidente della Repubblica. Il mondo ne è pieno, da Reagan in poi. Sì, attori e attorugoli. Allora, questo è molto bravo. Immediatamente si è mossa un'enorme campagna per nascondere delle cose dette non per denigrarlo in quanto Papa, ma scritte in libri, saggi, articoli, eccetera, nel corso di molti anni precedenti, quando lui era un normale vescovo, arcivescovo argentino, e su cui alcuni di quelli che si sono dedicati alla ricostruzione degli anni della dittatura hanno precisato e hanno detto che aveva avuto degli atteggiamenti di complicità, e comunque anche i difensori dicono perlomeno non si era schierato con quelli che si opponevano alla dittatura militare. E questo, c'è stata una campagna mondiale per negare questi fatti, che sono precisi, hanno portato la testimonianza di uno dei due sopravvissuti alla scuola militare di Marina, che adesso ha 86 anni, che sta in un pensionato cattolico in Germania, e quando l'hanno intervistato ha detto: no, io mi sono riconciliato col Papa, non ne voglio più parlare assolutamente, mi sono riconciliato con Bergoglio, basta, chiuso. Questo non è dire che non c'è stata una cosa, dice: sono sopravvissuto, mi basta, e soprattutto io sto qui in questo pensionato e non voglio farmene cacciare perché sono a riposo, sono un povero vecchio. Allora, queste cose esistono, è bene tenerle presente, perché è un uomo che ha saputo allearsi o perlomeno non opporsi a una delle più spietate, criminali e mostruose dittature che ci siano state in America Latina. Dopodiché il succo della campagna è che lui è un uomo semplice, è un uomo che abbraccia, che scrive, che telefona al suo edicolante: non mi conservare più il Clarin perché sono stato eletto Papa, e quello naturalmente si commuove e racconta tutto in Argentina che il Papa gli ha telefonato personalmente perché ricordandosi di lui e dicendo non mi conservare il Clarin. Ha abbracciato un leader dei Cartoneros, quelli che raccolgono, che stava nella delegazione di Cristina, ha fatto fare un salto a Cristina la presidenta, diciamo, perché si è avvicinato e gli ha dato un bacio. Lei dice: veramente un papa non mi aveva mai baciato, e forse ha pensato, speriamo che non sia il bacio di Giuda, perché diciamo finora si erano scontrati abbastanza vivacemente. Certamente un papa che farà politica in Argentina. Il primo viaggio sarà a luglio, sarà in Brasile. La sostanza del suo messaggio, tanto esaltata, il presunto francescanesimo, qualcuno aveva pensato che potesse, in quanto gesuita, pensare a un altro Francesco, Francesco Saverio, un collaboratore principale di Ignazio de Loyola, invece no, lui ha precisato che è Francesco, proprio Francesco d'Assisi. Però la sostanza qual è? È che lui è vicino ai poveri, fa l'elemosina ai poveri, gli lava i piedi ai poveri, quando, peraltro è un rituale previsto dalla Chiesa, anche tutti i papi fanno l'atto di umiltà di lavare i piedi, o un seminarista o una cosa, anche altri papi hanno fatto soprattutto nei primi giorni del pontificato alcuni gesti di questo genere che commuovono molto, commuovono intanto quelli che ricevono questo tipo di cose. Allora, però poi la sostanza qual è? Aiutare i poveri a rimanere poveri. Tranquillante sociale, gli facciamo un'elemosina in modo che siano buoni. Diciamo, chiamiamolo come ti pare, ma insomma è un modo per tranquillizzare e per attenuare le contraddizioni sociali. Questo Papa vedremo come si opererà. In Argentina lui ha dei conti in sospeso con questo governo. Non solo per la questione del matrimonio omosessuale che era stato voluto dal presidente Kirchner, il riconoscimento, il matrimonio paritario lo chiamano, ma che insomma è esteso senza discriminazione di sesso. Questo è chiaro che un papa a un credente, a un cattolico può non piacere, però il problema di fondo è che non gli è piaciuto anche diciamo il mettere in discussione il periodo della dittatura, e l'Argentina è il paese che ha fatto più processi ai generali torturatori di quanti ne abbiano fatto il Brasile, Bolivia, eccetera eccetera. Cioè c'è stato nonostante i Kirchner non fossero i più di sinistra, però si sono appoggiati fortemente sul malcontento che c'era nei confronti dei militari e hanno proceduto a qualche passo significativo sulla punibilità di questi dittatori. È chiaro che anche questo non gli piace, ma poi soprattutto è la garanzia che rimanga l'ordine capitalistico esistente, unico ordine previsto e armonioso, eccetera. Vedremo, lo seguiremo con attenzione, ma certamente è pericoloso. E infatti abbiamo un ascoltatore che proprio su questo tema ci chiede, l'ascoltatore in questione è un tale Fabietto D'Albano, che ci chiede se si può dire che con Bergoglio c'è l'affermazione della Chiesa della Liberazione. No, della Chiesa della Liberazione assolutamente. La Chiesa della Liberazione è stata distrutta da Giovanni Paolo II. Già è scandaloso che... Ah, tra l'altro, per difendere Bergoglio da queste accuse, non fategli ora, ma fategli 6, 7, 10 anni fa, pubblicate in libri, e non è successo niente, diciamo, su queste cose. Non è che è stato querelato chi ha scritto queste cose, che è Orazio Verbischi, che è il massimo indagatore sui crimini della dittatura. Padre Lombardi, portavoce Vaticano, ha detto: si tratta di un complotto della sinistra anticlericale. Dove sta sta sinistra anticlericale? E la sinistra si è abituata a illudersi per esempio, a non vedere il processo di distruzione della teologia della liberazione, che aveva delle figure bellissime. Elder Camara, per esempio, dicevano: se io faccio un'elemosina a un povero mi dicono che sono santo, se io mi domando perché povero sono comunista. Questi qui sono stati messi a tacere, sono stati allontanati dall'incarico religioso che ricoprivano, sono stati sospesi a divinis molti di loro. Di questi la maggioranza poi si sono risposati, se ne sono, uno dei problemi era anche il rifiuto del celibato ecclesiastico, che è una cosa che non c'entra niente con l'origine del cristianesimo, è stata introdotta nell'undicesimo e dodicesimo secolo, quando la Chiesa era diventata già ricchissima e non voleva che i papi e i vescovi e i preti dividessero le proprietà della Chiesa tra i figli, quindi li dividevano tra i nipoti, perché i figli venivano fatti figurare come nipoti. Allora, da questo punto di vista, la teologia della liberazione non c'è più da nessuna parte. Giovanni Paolo II, quando andò in Nicaragua, insultò e umiliò i sacerdoti che erano come i fratelli Cardenal, che erano esponenti della teologia della liberazione, ministri del governo sandinista, insultò le madri che chiedevano un suo intervento e una preghiera per le vittime della Contra. E quindi non c'è più in nessuna parte una parte significativa. Esiste una parte del clero che localmente, soprattutto in Brasile, fa un lavoro diciamo umile, pastorali operaie, pastorali ambientaliste, eccetera eccetera, e che fanno dei lavori utili, ma non hanno nessun peso, e la gerarchia è stata ripulita dai due papi precedenti, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che hanno ripulito da ogni esponente significativo. Poi c'è stata l'età che li ha fatti diciamo molti finire fuori, messi in congedo, e quindi difficilmente si può vedere questa. La sinistra ha continuato in Italia, casomai, a inventarsela questa teologia della liberazione attiva. Alcuni degli due esponenti di questa hanno difeso questo Papa Boff, ma dicendo: no, abbiamo bisogno di un Papa che adesso rimetta in piedi. Però è un desiderio, non è un'analisi affatto. In parte Esquivel, che però ha detto, l'ha difeso dalle accuse più gravi di avere consegnato nelle mani della dittatura due gesuiti che appartenevano quindi al suo ordine. Dice: no, non ci sono le prove, hanno smentito a metà. Però dice: certo, non è stato tra quelli che si sono battuti contro la dittatura. In Italia questa frase è stata tagliata regolarmente, perché lasciando solo la parte che, è chiaro che molti dei rimasti della teologia della liberazione, ottantenni, senza avere più un peso, emarginati della struttura ecclesiastica, sperano che questo Papa lo rimetta, ma non mi pare che abbia le caratteristiche per avviare questo processo. È esattamente il contrario. L'operazione, direi che, se andiamo a vedere cos'è stato il francescanesimo, scusatemi, io sono, prima di essere professore che si è specializzato nella storia contemporanea dell'America Latina, mi sono laureato in storia del cristianesimo, sono stato assistente per anni di storia del cristianesimo con Ambrogio Donini, e ho seguito molto queste cose. Ora, il francescanesimo è stato sull'orlo sempre dell'eresia quando è nato. Assomigliava ai movimenti come quello di Pietro Valdo, i valdesi originari, che erano come i catari, eccetera. A un certo punto la Chiesa lo riconosce e gli assegna un ruolo di facciata pulita della Chiesa. Francesco accetta, il suo movimento si divide subito in 3-4 tronconi, ci sono i minori, i minori osservanti, i cappuccini e gli spirituali, che, come Jacopone da Todi, eccetera, i quali tra l'altro confliggono parecchio tra di loro, si fanno la guerra tra di loro, ma servono per abbellire, per dare una verniciatina cristiana a un mondo che è barbarico, un mondo in cui continua a prevalere la violenza, in cui si celebrano i Te Deum per il vincitore di qualunque conflitto. In quando tu sei in un paese celebri la vittoria sugli altri e quindi un assassinio di uomini dell'altro fronte e così via. Dovranno venire fuori adesso la televisione, io non l'ho voluto vedere, mi hanno detto che è apologetico pure questo sui Borgia, perfino i Borgia salvano alla fine, lo vedono come un intellettuale sensibile eccetera, Papa Alessandro VI che aveva moltiplicato i peccati cardinali da 7 a 24, 27, ne aveva escogitati tutti. E io credo, però all'interno c'era sempre della Chiesa qualcuno che invece viveva piamente e cristianamente e diceva il cristianesimo è questo, e invece il cristianesimo era pure quello della violenza e della sopraffazione e del rapporto col potere. La Chiesa comincia come movimento spirituale e diciamo assolutamente rispettabile, è un movimento degli oppressi, un movimento degli umili nei primi 3 secoli, si lega al potere imperiale all'inizio del 4° secolo con Costantino, si collega al potere imperiale, poi nel vuoto del potere imperiale, quando l'impero romano si disgrega, assume un peso maggiore come potere temporale della Chiesa e poi si muoverà nel tutto e diventa una potenza in rapporto con tanti regimi diversi, appoggerà feudali, appoggerà i nuovi stati in maniera conflittuale, i nuovi stati diciamo nazionali, a volte scomunicando, a volte piegandosi ad essi. C'è tutto il periodo in cui il papato finisce un appendice del Regno di Francia, col papato avignonese, e che viene poco dopo la vicenda di Celestino V, che pure si dimette proprio perché si accorge che era manipolato da Carlo II d'Angiò, che l'aveva fatto eleggere, e non lo fa nemmeno arrivare a Roma, se l'era portato a Napoli, dove era la base del suo regno. Cioè, all'interno di questo cristianesimo corrotto e legato al potere c'erano i conventi in cui magari qualcuno praticava la vita cristiana, ma serviva esattamente ad abbellire il resto del mondo e a dire che qualcuno era cristiano e che si poteva essere cristiani. Sì, insomma, una sorta di foglia di fico. Tra l'altro, essere francescani non è assolutamente una garanzia. Ricordiamo i crimini italiani nei Balcani, i crimini nazisti italiani nei Balcani, che erano stati anche portati avanti da vescovi francescani e via dicendo. E invece sempre un altro ascoltatore, sempre rimanendo in tema Bergoglio, Francesco I, Nicola ci chiede come il crescente sviluppo industriale del Brasile, unito poi a eventi come appunto l'elezione di Bergoglio, può influire sul movimento di transizione che vive il Venezuela. Cioè, quindi, in pratica, Nicola ci chiede se Il nuovo Papa può avere un effetto un po' stile Wojtyla, un po' come si dice che Wojtyla abbia avuto sull'Unione Sovietica, però non solo sull'Argentina, ma sullo scenario regionale. D'altronde, sembra Wojtyla già dai primi momenti del papato, con questa sua. Questo essere quasi un Marlon Brando della Chiesa Cattolica. Beh, cura molto l'immagine e anche l'altro l'aveva curato. E c'era un battage perché c'era molta attesa. Però volevo ricordare che, contrariamente a quello che pensa tanta parte della sinistra, Wojtyla non c'entra niente con la caduta del sistema del socialismo reale. Perché lui è al quarto viaggio in Polonia. Lui ha fatto 3 viaggi in Polonia e il regime stalinista Jaruzelski si reggeva. Al quarto Jaruzelski gli ha chiesto d'aiuto per arrivare a una sperimentazione di transizione, che poi gli è andata male a Jaruzelski, perché pur essendo elezioni truccate è venuto fuori che il 90% della popolazione votava contro il vecchio partito sedicente comunista e guidato da un generale golpista. Ma non è stato quindi il Papa in quanto tale. Nei suoi sogni c'era, tant'è vero che andò a Cuba per fare la stessa cosa, e siccome Cuba non era marcia come la Bologna, Cuba ha retto alla prova, ha retto pure al secondo viaggio fatto da Benedetto XVI, però che non ha avuto nessun impatto perché il carisma non c'era Ratzinger non era assolutamente in grado di trascinare le folle, di commuoverle, eccetera. Sì, un ottimo abbigliamento, ma in effetti il Marlon Brando è sempre rimasto. Sì, si metteva i sombreros, eccetera, ma non era in grado. Adesso questo ha molte più capacità, è vitalissimo, anche non, dimostra meno anni di quanti ne abbia. È abilissimo in tutta una serie di cose, per esempio ha scelto immediatamente questo gesto, ma l'aveva avuto anche Giovanni XXIII, che lui studierà perché era il papa più amato, è stato, e quindi lui studia questo. Allora lui si tiene la croce di ferro che aveva e non indossa la croce d'oro, ma le croci d'oro, che ce ne avrà alcune centinaia nei forzieri del Vaticano, rimangono lì. Non si mette l'anello, fa sapere a tutti che sembra d'oro l'anello piscatorio, ma è fatto di argento placcato. Può essere che sia veramente argento placcato, ma ce ne, dimmi tu quant'è, ma fosse solo oro. Le ricchezze del Vaticano sono le partecipazioni a banche di tutti i generi in tutto il mondo, non solo la banca IOR e altre cose, ma ci sono una quantità enorme, ha una potenza in moltissimi paesi. In Italia è stato calcolato che come pacchetto azionario è di gran lunga superiore a quello della famiglia Agnelli. Vediamo cosa farà su questo. È stato reclamizzato che lui ha voluto pagare l'albergo dentro il Vaticano dove aveva dormito durante il conclave, no? La pensione Santa Marta, e lui è andato per pagare, non l'hanno fatto pagare dicendo ma santità, esso è suo, che vuole pagare, ma al di là degli scherzi, la questione è vediamo se farà pagare l'IMU alle proprietà ecclesiastiche, vediamo se farà pagare per gli ospedali cattolici ad altissimo costo, finanziati dallo Stato eppure esentati dalle tasse, se farà pagare per le scuole private in cui si forma la classe dirigente, per l'università cattolica, diciamo, e così via, tutte cose esentate dall'IMU, e vediamo se su quello lo andiamo a verificare, non sui gesti simbolici e non sul lavaggio dei piedi e non sulla croce di ferro. Comunque è chiaro che il fatto che viene tanto amplificato da tutta la stampa senza eccezione vuol dire c'è molto bisogno, in una fase di smarrimento, di crisi economica e crisi sociale e crisi politica, vediamo di proporre alle masse un punto di riferimento convincente, un leader carismatico che gli prospetta la salvezza, eccetera, per cui i danni li farà anche in Italia. Quindi ok, si conferma anche lui un Marlon Brando. E ora, insomma, parlando di papi, hai accennato pure te prima a Cuba, nel tuo libro che ricordiamo Fidel e il Che, affinità e divergenze tra i due leader della rivoluzione cubana, edito da Alegre, che tu sei venuto a presentare in questi giorni a Roma, hai un appendice totalmente dedicata appunto ai viaggi papali, prima di Wojtyla e poi i due viaggi di Wojtyla, poi il viaggio di Ratzinger a Cuba. Cuba, paese del... comunque è un paese che abbiamo visto sicuramente estremamente simbolico, sicuramente nell'immaginario di chi ascolta la radio e penso anche di parecchie persone che non l'ascoltino, ha un posto penso nel cuore di tutti noi. Paese che sembrava che dovesse cadere dopo la caduta del muro e invece è ancora lì che esiste e resiste, e c'è arrivato Wojtyla con la speranza forse appunto di farlo cadere, come sperava di far cadere la Polonia, invece è ancora lì, e via dicendo. Cuba oggi non è sicuramente il paradiso di là dove scorre i fiumi di latte e miele, o un socialismo libertario, comunque un socialismo che ha i suoi limiti, una grossa burocratizzazione e via dicendo. Ultimamente ci sono state le elezioni all'Assemblea Generale, dove... Che succede? Ce la descrivono tutti come anche allo scorso Festival di Sanremo, cioè un gruppo anche di sinistra come le Storie Tese raccontò delle ha fatto una canzone con un riferimento abbastanza squallido a Cuba, dandogli del paese del dittatore, con anche se ormai appunto Fidel non c'è più, c'è ma non c'è, dicendo appunto non ci sono elezioni, il paese dittatoriale e via dicendo. Cuba che cos'è? Ma io prima di tutto vorrei dire perché ho messo due capitoli, un capitolo articolato con la descrizione dei due viaggi, dei due papi, perché io temo che la Chiesa a Cuba raccolga l'eredità di un potere che non sa rinnovarsi a sufficienza, ma che resiste tenacemente, che quando ha cominciato le riforme ha stabilito che i leader possono stare solamente per due mandati, però ha calcolato questo a partire da quel momento, per cui Raul Castro, che ha già 80 e passa anni, può stare, adesso ha finito i primi 5 anni e ne fa altri 5 anni, è un modo di prendere in giro, diciamo, il rinnovamento, e da questo punto di vista è un paese che ha paura di cambiare, perché ha paura che se comincia a fare una cosa modestissima come rinnovare rapidamente il gruppo dirigente non sa che spinte si possono inserire, perché allora da questo punto di vista mi preoccupa la tattica della Chiesa. La tattica della Chiesa a Cuba è offrire ospitalità anche alla sinistra marxista, che trova poca ospitalità sulla stampa ufficiale, che è chiusa, spenta, illeggibile. E allora invece le pubblicano sulle riviste dell'arcivescovato, che sfuggono alla censura, e in cui ci sono delle persone degnissime che scrivono, che sono persone che sono guevaristi storici emarginati da anni possono scrivere lì, che sono economisti che erano stati considerati dissidenti e non lo erano affatto, di formazione comunista, eccetera. Quindi da questo punto di vista si fa bella di questa offerta di spazi, ma però ha una struttura gerarchica autoritaria e pretende di rappresentare tutti i cubani, mentre rappresenta solamente il 5% dei cubani. Questo lo dicono quei cubani che sono rimasti marxisti, coerentemente marxisti, e che sono anche libertari, e che sono anche atei, e non se ne vergognano, cioè specie in via d'estinzione forse, e che dicono: questi pretendono, rappresentando solo una minoranza, perché lo si vede da chi osserva i precetti sessuali della Chiesa, per esempio, e si vede che sono una piccolissima percentuale della popolazione. Se fossero cattolici sul serio non si divorzierebbero ogni momento, perché i cubani hanno una frequenza e una facilità estrema nel ricambio, eccetera. E però pretende una rappresentanza di tutto il popolo, mentre la Chiesa Cattolica pesa poco, perché pesava pochissimo e adesso pesa un pochino di più dopo questi viaggi e dal fatto che distribuisce risorse finalizzate ai parroci, eccetera, ma senza riuscire a avere un reclutamento di parroci nuovi. Hanno aperto seminari, ma sono pochissimi, in tutta l'isola sono arrivati a 400 solamente, che sono insignificanti come forza organizzata. Perché questo? Perché la Chiesa si presenta come una novità, ma una novità che punta all'allearsi col potere per fare una transizione, sì, alla polacca, diciamo un inserimento graduale nelle strutture del potere. E questo mi preoccupa, perché non sarebbe un passaggio, un miglioramento, ma sarebbe un passare dalla padella nella brace, e certamente con questo Papa è possibile che ci sia qualcosa del genere, tanto più che a Cuba la gente comune può anche dire: beh, da noi abbiamo dei dirigenti che stanno lì dal 59 e ancora non se ne vanno, se non per malattia o morte. E invece, per esempio, la Chiesa Cattolica c'ha avuto un Papa che si è dimesso, fa un figurone in confronto alla Chiesa Cattolica. Inoltre la Chiesa Cattolica si presenta col suo volto migliore. Già è stato abbellito Giovanni Paolo II, che Fidel fu criticato proprio da alcuni esponenti della teologia della liberazione, che ancora esistevano allora, quando c'è stata la visita del Papa, come Giulio Girardi, eccetera, che gli hanno detto: guarda che sto Papa è un nemico del progresso, eccetera. E invece l'avete accolto presentandolo come un apostolo della pace e della giustizia, e accontentandosi di belle parole e di promesse vaghe. E diciamo, quindi, da questo punto di vista, oggi la Chiesa può puntare lì prima di ogni altro paese a raccogliere un po' di frutto per l'immobilità. Hanno annunciato le riforme e non l'hanno sapute fare. Sono rimaste a metà di queste riforme annunciate da Raul Castro. Mi preoccupano, perché sono riforme che possono reintrodurre anche la proprietà privata oltre un certo limite, anche permettere di assumere delle persone all'interno di aziende. Una cosa è il lavoro in conto proprio, artigianale. Un po' se cominci a fare piccole aziende, comincia a esserci uno sfruttamento. L'hanno fatto, l'hanno annunciato, ma poi l'hanno fermato a metà. Allora c'è chi preme per andare avanti e chi invece è preoccupato. C'è una componente che si riallaccia a Guevara. È l'unica cosa nuova a Cuba che ci sono dei siti internet. Purtroppo pochissimi cubani hanno accesso a internet, sono in genere intellettuali, cioè, poi c'è un intranet solamente locale da cui non ti puoi connettere a delle reti esterne, ma diciamo, e questi hanno cominciato a scrivere, a fare delle pubblicazioni, a contestare, e ci sono alleanze tra marxisti e anarchici. Sì, ma ricordiamo che non, quando si parla di siti internet di sinistra, non si parla assolutamente della blogger Ioani Sanchez. No, quella è una cialtrona, ma per carità. No, quella non c'entra, ma però diciamo, ammetto una cosa: quella ha potuto fare quello che ha potuto fare, vendersi così bene all'Occidente, ma perché è difficilissimo. È una che è riuscita a procurarsi l'aggancio, che è difficilissimo. Ci sono nelle case cubane una serie di accrocchi per collegarsi in qualche modo, ma insomma hanno perfino bloccato la CNN per gli alberghi quando c'era il periodo nel 94 dei Balseros, eccetera, che sarebbe stato meglio che trasmettessero le notizie dirette su questo esodo, perché forse se lo capivano meglio forse si fermava prima questo esodo disastroso. Cioè la chiusura censoria è una cosa dannosa, e che impedisce, e che poi porta tutti i rumori, le chiacchiere, i pettegolezzi, la cubanologia la speculativa, gli Omero Chai e così via, ma è proprio frutto della disinformazione e delle reticenze. Quando si ammala Fidel, il bollettino lo fa l'ufficio politico, non il medico, e non basterebbe che lo facesse il medico e nessuno dubiterebbe. Diciamo, se invece lo fa l'ufficio politico del partito. Sono questi metodi che provocano, diciamo, lo spazio. Allora, dopodiché, questa si è inserita, ma il problema questo rideva anche durante la presentazione di sabato anche il primo consigliere d'ambasciata venezuelano, quando io ho detto che c'erano i misteri di Fatima, c'era il terzo mistero che era il meglio conservato, il più conservato di tutti, è perché il famoso cavo che doveva collegare Venezuela a Cuba è stato annunciato e poi non è mai entrato in funzione, e quindi continua a esserci un motivo tecnico che impedisce la distribuzione di accesso a internet alla popolazione. Ce l'hanno una piccola percentuale che sono intellettuali prestigiosi, eccetera, in cui diminuisce il numero di quelli che hanno il coraggio di scrivere. Non gli succede niente, ma certo non fai carriera se scrivi cose sgradevoli. E questo è un male, perché Cuba ha delle risorse intellettuali di compagni marxisti, eccetera, che potrebbero essere utilizzati molto meglio se invece i mezzi di informazione non fossero riservati a delle persone conformiste e con scarsa fantasia. Sì, dall'altro invitiamo tutti a leggere giornale ufficiale del Partito Comunista Cubano, il Gramma, che ha un'edizione italiana che è agghiacciante. Ora il tempo è tiranno, abbiamo giusto un ultimo flash. Abbiamo visto Cuba soffre da penso 40 anni, 50 anni di del blocco, del famoso bloccheo, il blocco, che l'embargo che gli Stati Uniti e tutti gli altri stati europei al seguito hanno imposto sull'economia cubana, che ovviamente danneggia l'economia, danneggia anche la rivoluzione, perché le ristrettezze non aiutano mai la rivoluzione, forse in parte anche giustificano cioè possono essere uno dei motivi scaturenti anche di varie storture che ci sono state a Cuba. Il processo, i vari processi bolivariani e via dicendo, avevano fatto uscire Cuba dall'isolamento cui si era ritrovata, penso, tutti gli anni 90, dalla caduta del muro. Penso che l'unica cosa che l'abbia rotta sia stata la visita del Papa, anche se solo a parole, come scrivevi anche nel libro. Che pericoli abbiamo visto? No, le missiones bolivariane, per cui il Venezuela inviava petrolio a Cuba, che ha un grandissimo bisogno di elettricità e via dicendo, in cambio inviava medici, c'era insomma questo scambio di internazionalista, potremmo dire, che ha permesso a Cuba anche di sopravvivere. Rischi sul futuro se l'Alba non riesce a imbroccare la via giusta con il successore di Chavez o con eventuali mancanza di successori per Cristina Kirchner? Ma intanto non è questione di Alba e basta, perché Alba intesa come tutto il processo di riavvicinamento. Ecco, non è solo questione, il problema di fondo è il Venezuela. Perché era un rapporto bilaterale, prima di tutto, tra Cuba e il Venezuela, che era basato su uno scambio prezioso e non affatto un'elemosina, perché quello che naturalmente Cuba forniva quello di cui aveva abbondanza: medici, insegnanti, allenatori sportivi, eccetera, eccetera, organizzatori. E ha aiutato moltissimo, ne abbiamo parlato prima e non mi dilungo. E riceveva in cambio petrolio, ma il petrolio che il Venezuela dava a molti altri paesi a condizioni di favore, a tutti gli altri paesi dei Caraibi, anche piccolissimi e non interessanti politicamente, ma proprio per aiutarli, e che ha distribuito anche negli Stati Uniti durante un'invernata particolarmente fredda, ha fornito gasolio da riscaldamento ai poveri degli Stati Uniti. Un gesto propagandistico, ma interessante e positivo. Allora, se il Venezuela può continuare a fare questo, va bene. Nessuno si è pronunciato contro la continuazione di questo, perché anche il Venezuela ha avuto i suoi vantaggi dall'aiuto delle missioni, eccetera. Dopodiché, però, se il Venezuela conosce per errori, per esitazioni, per divisioni interne, conoscesse qualche difficoltà, e c'ha alcune difficoltà all'orizzonte per il tasso di inflazione, per alcuni aumenti di prezzi che devono fare il primo aumento della benzina, che non hanno avuto il coraggio di fare dall'89 a oggi, e la benzina costa niente praticamente, il posto in cui costa meno benzina e gasolio costa meno che in qualunque altra parte del mondo, con un dollaro fai il pieno di un SUV praticamente, e non l'hanno mai toccato, ma è chiaramente sotto costo, perché e naturalmente quindi sperpero, eccetera. Però l'hanno annunciato, ma si fermano, hanno paura, perché in Bolivia ci fu una rivolta quando due anni fa ci fu il tentativo di aumentare la benzina, che anche lì ha un prezzo bassissimo, e peggio ancora alimenta, dato che è un paese molto piccolo, alimenta il contrabbando verso paesi vicini, eccetera. Quindi da questo punto di vista basterebbe un qualche errore e un qualche arretramento delle cose, e questo potrebbe avere ripercussioni gravi su Cuba, perché Cuba non ha una vitalità sua, perché si è esaurita, cioè l'ha avuta fortissima nei primi anni, ha avuto l'ultimo sussulto importante, un ruolo importante nell'85, quando Castro cominciò la sua critica, riprese la critica guevariana all'Unione Sovietica prima del crollo, con la rectificación de errores, processo di rettifica di errori. E in quel periodo aveva lanciato anche alla metà degli anni Ottanta una campagna per il superamento del debito internazionale con una coalizione di paesi debitori, e questo processo non fu raccolto da nessun altro paese latinoamericano, perché tutti i paesi latinoamericani erano governati da rappresentanti dei creditori, dei paesi che gli avevano fornito, quindi non riuscì. Dopodiché si è logorato per la sua incapacità di trasformarsi, di modificarsi, di riformarsi. Non è un paese in cui ci sono molte cose che sono invidiabili dal punto di vista dell'assistenza medica, istruzione generalizzata, che però mano a mano sono state erose dalle difficoltà, non sono state cancellate e sono sempre enormemente superiori a quelle di qualunque altro paese latinoamericano. Però non sono più le stesse, hanno dovuto cominciare a ridurre, prima tutti dalle medie in su, stavano in collegi e quindi nutriti, eccetera, spese dello Stato, vestiti, eccetera, invece non più. Hanno dovuto cominciare a ridurre il numero di scuole, a ridurre le cose, non hanno introdotto tasse universitarie e i libri vengono forniti ancora gratuitamente, ma si è dovuto contrarre un po' la cosa, cioè perché sono difficoltà oggettive e dal fatto che non riescono a decollare con le trasformazioni e le riforme che hanno programmato loro stessi. E da questo punto di vista stiamo a vedere. Ma auguriamoci e impegniamoci a sostenere il processo e speriamo che vinca le elezioni il PSUV, nonostante la sua, diciamo, le sue piccole contraddizioni. Allora, un'ultimissima domanda da Roberta, ritorniamo proprio sul Venezuela, abbandoniamo Cuba. A parte Fabio, che il nostro ascoltatore che ci ha fatto la domanda sulla teologia della liberazione, che ci dice che in futuro più che rivoluzioni ci aspettano processioni, Roberta ci chiede se per caso Chavez non dava il controllo delle riserve di petrolio e gas alla Chevron o alla ConocoPhillips, come anche il settore bancario al gruppo Santander. E questi, se è così, questi atti come si conciliavano con il suo antiimperialismo? Allora, il suo antiimperialismo era prevalentemente nominalmente, propagandisticamente contro l'imperialismo americano, cioè statunitense, ma molti gesti erano più simbolici che altro. Per esempio, quando ha fatto delle nazionalizzazioni, molte nazionalizzazioni erano apparenti, nel senso che chiedeva un contributo maggiore, se non glielo otteneva chiudeva quella concessione, ma poi gliene dava subito un'altra. Anche l'ENI ha partecipato a queste cose e anche l'ENI ha beneficiato di nuove concessioni di altre zone di sfruttamento petrolifero. Quindi non ha mai programmato la cacciata complessiva delle imprese straniere, quindi è sostanzialmente esatto questo. Anche due anni fa io mi sono trovato proprio nel momento del maggiore entusiasmo di amici chavisti per il fatto che erano state nazionalizzate una catena di supermercati che erano diventati i supermercati del bicentenario dell'indipendenza venezuelana, e che fornivano alcuni prodotti a prezzi calmierati. Ora, questi supermercati erano stati nazionalizzati per bloccare delle speculazioni che venivano fatte e che venivano considerate ingiustificate, ma erano state fatte con indennizzo tale che altre catene di supermercati hanno detto nazionalizzate pure noi, perché gli davano una liquidità che gli permetteva, come accadde da noi quando nacque l'Enel, perché l'Enel si è costituita e c'erano gli imbecilli che dicevano è un atto comunista, è una sopraffazione. No, volevano fornire energia elettrica a basso costo alle industrie per lo sviluppo, per lo stesso motivo per cui lo Stato costruì l'Italsider, oggi Ilva di Taranto, per fornire fornire acciaio a buon mercato all'industria metalmeccanica. Però dando indennizi cospicui alla Edison, alla Montecatini, a tante altre imprese, queste hanno potuto fare una concentrazione di capitali e investire successivamente all'interno di altri settori, per esempio nel settore petrolchimico, della chimica. E quindi da questo punto di vista ci sono dei fenomeni analoghi. Anche quando un'altra nazionalizzazione importante che c'è stata in Venezuela, la Sidor, che era un'industria siderurgica per il continente latinoamericano abbastanza grande, e gli operai avevano rivendicato la nazionalizzazione con una lotta tenace e dura, perché l'azienda, che era capitale italo-argentino, della Techint, che sono degli italiani trapiantati in Argentina e associati a altri argentini, non rispettava i contratti e soprattutto teneva, cosa che succede pure da noi tranquillamente, una percentuale altissima degli operai fuori contratto, con contratti di precari a bassissima retribuzione. E hanno fatto una lunghissima lotta, perché il ministro del lavoro gli aveva mandato la polizia a caricarli, finché sono riusciti a raggiungere Chavez, e Chavez è intervenuto e l'ha nazionalizzato. Ma la Techint non si è sentita punita, perché ha avuto un tale indennizzo che ha investito subito in altre fabbriche. E dopodiché pare che la gestione operaia non sia stata così entusiasmante, perché essendo stata statizzata, sono arrivati anche i funzionari statali della boliburghesia, che hanno, e per cui c'è stato un po' un rischio di cambiare padrone e basta, e ci sono, e c'è tutta una discussione sul controllo operaio in Venezuela. E allora, esauriente, chiudiamo qui questa nostra trasmissione, ringraziamo Antonio. Ricordiamo che il suo libro Fidel e il Che, affinità e divergenze tra i due l'affinità e divergenze tra i due leader della rivoluzione cubana, edito da Alegre, lo potete trovare andando su www.ilmegafonoquotidiano.it, dove c'è il catalogo della casa editrice, o altrimenti lo potete trovare anche nella Biblioteca Popolare Assata Shakur a Via della Costarella 19. Ricordiamo che Antonio scrive parecchio di attualità, ha un sito in cui scrive di attualità, pubblica libri non solo su Latino America, ma anche ad esempio sul Medio Oriente, ma anche ad esempio sulla storia della Fiat, e inserisce anche documenti e analisi di altri intellettuali latinoamericani, anche di quella sinistra cubana di cui parlavamo prima. E quindi andatevi a leggere antoniomoscato.altervista.org. Noi siamo Radio Default e ringraziamo i nostri ascoltatori per le domande, e buona serata a tutte e a tutti.